21. Poi avrà bisogno di una mano, ci sono i sacri, vabbè, la prossima volta, poi c'è problema, ne faremo altri. Noi andiamo lo stesso, abbiamo già però fatto il nostro tour. Non ci veniva neanche Roberto, non ci veniva Salvatore, ma io, cioè, me l'ha andata bene lo stesso, amica. Hai capito? Non è otto un premio, io faccio festa con chiunque, no? Non c'è problema. Non è che andiamo a fare da fuori, ma non, proprio, già solo una settimana, la tornavo, dentista, quello, all'anno, stamattina ero a Sassa, ripeto, per varie cose. Niente, perché vi faccio per quelle cose che negli attimi del tempo peggiore, in quei rincagli di tempo, già, perché se sono venuto giusto giusto da scuola di Claudio, allora proprio di prenderti un morso al volo e partire adesso alle 3:20 devo andare a pigliare l'asilo, poi c'ho la scuola elementare, e capito, sono tutte cose già usate, stai sempre, sempre correndo. Ho capito. Sì, tu ci hai transistorizzato, non già? Cosa? Nella ZGE? No. Sì, noi ho con le ZGE li vuole da tutti. Te devo mandare anche lo schema di questa roba, solo che è capitato, proprio oggi, che gli ho dato il numero del fax di mio cugino che c'è da parte. E non era Sassari, c'era zia che stava comprando il toner proprio per il fax. Guardi, quella l'ho provata a scrivere adesso alle 4:30, gli hanno sbagliato, va a riprendere l'altro, speriamo questa sera riesca ancora, diciamo, a contattarli, mi mandano lo schema di quella, prima pizza, gli hanno fatto a grigio. Bellino, capito? Lì basta montarci nelle 519, dare le palle una controllata da Giancarlo, stiamo partendo alla grande. Ma decidi, andiamo insieme un giorno, se noi di sera se andiamo insieme a Chiaramonti e prendiamo, passi a casa, mi prendi, ti faccio compagnia io. Chiaramonti? E non vedo nel Chiaramonti. Chi ha preso queste vacche? No, Giancarlo era quello di Terralba che è andato giù di Vulcano. Ho capito, io sto pensando che le Chiaramonti sono sbagliato io, Già che ho preso questo, aspetta quella roba lì, hai capito? Devo lineare, non ti preoccupare, già che non sono senza. C'è quello degli anni 70 che ha costruito questa verde, lì manca il trasformatore, e poi era una lavoratore che ha costruito lui con uno schema che era stato fatto a penna, quello andava 300 watt, e poi lì il trasformatore ce l'avevamo rifatto per fare troppi, questo parlando già del 75, per prestarlo a uno a fare sempre le cazzate che facciamo quando la roba funziona, e dopo è rimasto sempre così, quindi era ruolato e è rimasto sempre spostato, però c'ha le valvole dentro i variabili, ci veniva il trasformatore, fatti i collegamenti, e poi l'altro gli ho messo già, come si chiama, nell'altro i condensatori gli ho messo a quello che sono saltati, però ha fatto danno in qualche resistenza, e quindi di quello già c'ho lo schema, non me ne preoccupo, hai capito? L'importante è questo, l'ho comprato proprio per modulare con voi, per sentirsi, se no Giuseppe non ti ascolta, se devo parlare con Giulio Dora non avviene il collegamento, e quindi ci ho dovuto ricorrere a comprarlo, perché se non è arrivato bene, ma con attaccato io avrei. Cioè, quando ti arrivo con questo apparecchio? Aspetta, è un attimino, prova. 1, 2, 3, prova. Ora. Io ho 10 watt in questo apparecchio di potenza di fitta. radiostazione, però se avevamo una radio più possente come quella tipo di Terpale, come se io avessi alla grande. No, ma a me mi piace la radio normale, perché cioè normale, ma amplificata sì, però questa amplificata va bene la radio. Io mi sento, insomma, mi accendo, io la sento più amplificata questa qua. È strano che tu mi senti. Hola, hola, uno, due, tre, prova, aspetta, metti tre, tre. Hola, uno, due, tre, prova. Cavolo, va benissimo. Hola. Quando modula Pierpaolo, capito, è più aggressiva, capito, più potente, non so se è Mikey, però anche molte volte quando è così aggressiva già, diventa anche brutta, perché l'armi vuole fuori. Da quando mi sono Turner, capito, la radio è bellissimo, cosa succede? Se lui gli mette qualche, diciamo, vitamina sotto, non distorce, invece se con quello di Pierpaolo, con quello si chiama potente, è un altro tipo di radio, questa è una radio normale, quella lì diciamo è una radio già elaborata e cose, va molto bene, perché va molto bene, la radio la senti ovunque, però non è dal microfono ma dalla radio. Comunque qua stai usando adesso la parecchio? Sì, il Galax. Che quanti volte stai contando? 9 watt. Io ho detto che sei in alto, cioè la mia, se mi figurate se io la alzo l'antenna, diciamo che ho l'antenna con più guadagno, allora arriva, perché a cosa San Vedio 9.5 le arrivavo. Ma dove San Vedio? A cosa? Al posto di lavoro? Così a casa sua, Sassari, l'ho modulato verso mezzogiorno e mezzo, ho detto che 9.5 arrivavo. Deve essere c'è qualche varco diverso dal mio e più forte. Tu quando ti arriva a te? Con lo scala, anche Natalino, e più che pompa forte che sfascia tutto qui a coso. E Mario Manse, anche più di Roberto Quadrato, e c'è una potenza Mario che... infatti mi ha preso anche io e ho detto ti faccio fare 4-5 giri di meter. Arriva veramente già, ieri sera non ho potuto entrare in frequenza per varie cose. Quella discussione perché mi ho incavolato, perché non potevo venire lì. Non me, ero proprio incavolato e non ho acceso, perché mi spiaciuto ritornare la parola indietro, che sono una persona precisa, purtroppo, no? Non mi posso tirare indietro, come a dire mi stiamo venendo noi e te ne stai. E quello lì mi è molto dispiaciuto già, ed era un po' così. L'ho acceso e l'ho ascolto, mi ho seguito, però non ne avevo voglia di parlare già perché non avevo di buona lotta ieri sera. Ho ascoltato tutti i discorsi che avete fatto, mi ho fatto due risate, mi ho fatto per poco nulla e così già. No, ripeto che basta un pochettino già l'antenna, che se io me ne accorgevo da quella del televisore quando c'era la TV della Rai normale, spostata di una fesseria già non riceverla più. Paga. Vabbè. Capito, cosa vuoi fare? Magari non ci viene nemmeno più alla fine, ti rimani. Ci avvengono perché devo andare a suo paese, non so già, io nemmeno, non so neanche chi sono, cioè. E quindi anche Ottava, c'è una sorella che abita Ottava, io manco la conosco, si può dire, io già, non sai come sono fatto, io non vado a farmi venire di Parigi, non vado, mia sorella già è sposata, 20 anni, quindi ti dico che anche la sua ci sono andato 2 volte, proprio non mette io a Carcieri ci sono ogni giorno, proprio per non disturbare, per non stare, per non fare, hai capito, e niente, no, guardi a qua perché quelli là sono andati a trovare a lei, e sicuramente, però io già, hai capito, ho dato la mia parola e me ne volevo anche uscire, capito, una sera da casa, me ne volevo anche uscire, devo portare anche la 50, perché non siamo mai, siamo sempre rinchiusi, o per il tempo brutto, per altre cose, è giusto per anche vedere altra gente in faccia. Raga, cosa vuoi fare, capito? ne può fare a meno, pazienza. Buona